Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms, anche oggi sarete con me, domani torna Sebastiano Barisoni. Di cosa parleremo oggi? Beh, sulla Grecia toccheremo l'argomento, vi daremo le notizie di questa giornata, vi invitiamo come sempre ad intervenire via sms perché resta questo un tema centrale di queste ore, ma non ci dedicheremo un approfondimento particolare, anche perché è una giornata di attesa sostanzialmente quella di oggi. Continuano a susseguirsi riunioni sui soldi da fornire alla Grecia e però la realtà è che si guarda soprattutto a quello che dovrà approvare il Parlamento greco, tutta questa serie di riforme che sono state richieste dall'Unione Europea, o meglio dal Consiglio Europeo, dalla riunione dei capi di Stato e di Governo, e che devono essere approvate entro 48 ore. Probabilmente si andrà a votare domani, probabilmente si andrà a votare un'altra volta di notte, con grande fatica per tutti, compresi i giornalisti, consentitelo. Nel frattempo questa sera Alexis Tsipras, il premier, interverrà nella TV pubblica greca per parlare anche di questo accordo. Si fa sentire l'ex ministro delle finanze Varoufakis dal luogo dove si trova, che è un'isola greca dove è in vacanza, fa una serie di interviste, parla di dittatura finanziaria, ma come sentite oggi, dopo la giornata di ieri che ha portato a questo accordo, siamo sostanzialmente sulle chiacchiere. Aspettiamo di vedere che cosa succede domani, almeno per il momento siamo sulle chiacchiere, per carità, sempre pronti ad aggiornarvi se arriveranno notizie, ma per il momento appunto siamo sulle chiacchiere. Ve lo daremo come notizia generale, non entreremo nel dettaglio. C'è un altro fatto internazionale, un altro accordo importante sul quale vogliamo entrare invece nel dettaglio, ed è quello del quale abbiamo parlato ampiamente in termini politici all'interno dei nostri giornali radio e anche all'interno di Effetto Giorno, e che è quello sul nucleare iraniano, che ha dei risvolti economici molto importanti. Una parte li abbiamo già visti oggi sui mercati ed è quello che abbiamo visto per quanto riguarda il prezzo del greggio, che nell'immediato ha subito una discesa piuttosto forte. Considerate che il Brent in questo momento scende dello 0,66% a $57,4 al barile, il WTI, quello americano, con consegna sempre ad agosto, sale adesso dello 0,04% a $52,2 al barile. Detto ciò, l'impatto nell'immediato si è sentito, tanto che il Brent è sceso di 2 punti percentuali, ma è un accordo importante non solamente da un punto di vista petrolifero e non solamente da un punto di vista geopolitico, perché cambia l'impostazione su quello che con un'espressione abusata viene definito lo scacchiere medio orientale, ma anche dal punto di vista economico, perché dal 2016 verranno sollevate le sanzioni progressivamente a partire da questa seconda parte del 2015 e fino al 2016. Si apre un mercato potenzialmente molto grande anche per l'Italia, e qua la SACE ha pubblicato uno studio, parleremo col capo economista della SACE per spiegarci quali sono i settori nei quali le aziende italiane possono entrare e possono intervenire, e nel quale, paese nel quale subiremo ovviamente una forte concorrenza. Concorrenza che ci arriva dalla Russia e dalla Cina, che le sanzioni di fatto non le hanno seguite e quindi sono entrate nel mercato iraniano con forza. Concorrenza anche dagli altri paesi europei che già stanno programmando, anzi sono già pronti, i tedeschi sono già pronti. Sigmar Gabriel, il ministro dell'economia tedesco, ha già organizzato un viaggio con 100 imprenditori in Iran, perché è un mercato potenzialmente enorme, potenzialmente molto forte, che conta 75 milioni di abitanti, con un grado di istruzione mediamente piuttosto elevato, con un tasso di crescita dal punto di vista demografico pazzesco, se considerate che si pensa nel 2025 arriveranno a 100 milioni di abitanti, molti giovani, e quindi un luogo interessante nel quale esportare e nel quale investire. Ne parleremo, parleremo evidentemente anche dell'aspetto geopolitico e poi più avanti nella seconda parte della trasmissione anche dell'aspetto più puramente petrolifero, insomma di quello che è il settore più evidente, il settore energetico, il settore più interessante per quanto riguarda appunto l'Iran, o almeno quello più evidente. Là su quel fronte ne parleremo tra un attimo. C'è anche una grande necessità di innovare le infrastrutture, quindi quando parliamo di petrolio non pensate solamente alla materia petrolio, alla materia prima petrolio, ma pensate anche a tutti i lavori che le nostre aziende possono fare là per innovare gli impianti petroliferi. Quindi una buona opportunità di investimento in questo senso, e non solo in questo senso, ne parleremo. Ci occuperemo di un settore industriale italiano, quello della nautica, settore della nautica nel quale, nell'associazione che raccoglie le aziende, Lucina, si sta tentando un po' di ricomporre i pezzi, ci sono state delle frizioni all'interno e si tenta di arrivare al Salone Nautico che si apre il 30 di settembre, insomma con forza e con energia, anche come per renderlo una vera rappresentazione del nostro Made in Italy, come in effetti è sempre stato. E poi faremo una puntata, perché non vogliamo lasciar sole quelle popolazioni e quelle aziende, faremo una puntata sulla riviera del Brenta. C'è stata la tromba d'aria, l'evento è stato molto circoscritto, certamente non è stata come l'alluvione di qualche anno fa in Veneto che ha colpito praticamente 200 comuni, e però nel luogo dove c'è stata quella tromba d'aria ci sono stati molti problemi. Considerate che il sindaco di Dolo calcola nel suo solo paese, tra aziende, edifici e ville venete rovinate, quindi anche beni culturali e artistici, parla di 150 milioni di euro di danni. Lo guarderemo dal nostro peculiare punto di vista, ospiteremo il presidente dell'Associazione Industriale di Venezia per farci dare un quadro della situazione per quanto riguarda le aziende. I mercati. Mercati oggi che perdono qualcosa, meno 0,35% il FTSE MIB, meno 0,43% il FTSE All Share, Parigi in guadagno dello 0,6% e Francoforte dello 0,24%, su anche l'America, Dow Jones più 0,28%, Standard & Poor's 500 più 0,4% e Londra in rialzo dello 0,12%. Da segnalare sul listino milanese, in particolare ci sono due titoli molto negativi, si tratta di Mediolanum e Azimut. Questo perché? Perché c'è una segnalazione. C'è una segnalazione della Consob che riguarda i fondi in merito alla distribuzione, alla corretta informazione ai clienti dei fondi esteri ed estero vestiti, un richiamo che è arrivato dalla Consob e che ha spinto al ribasso queste aziende. Ne parleremo nello spazio dedicato ai mercati. Vi dico solo che invece in cima al listino troviamo Tots che guadagna il 2,13%, Monte dei Paschi più 1,94%, Prismian più 1,21%, Tenaris più 1,02%, Campari più 1%. 349-238-6666 per i vostri sms. Le notizie in breve di oggi. Qualcuno già ci chiede, ma se gli inglesi non sono d'accordo a mettere i soldi per il prestito ponte e qualche Parlamento non ratifica l'accordo con la Grecia, si ricomincia da capo, francamente. Speriamo di no, siamo esausti anche noi. Detto ciò, il problema degli inglesi è relativo, perché è stato chiarito che si può fare il prestito ponte anche senza un accordo all'unanimità, basta un accordo a maggioranza qualificata. La questione dei parlamenti è rilevante, certamente è rilevante, sono quattro parlamenti che devono ratificare l'accordo, il primo è quello greco che è particolarmente importante, poi c'è sicuramente quello tedesco. Su quello tedesco sembra che Angela Merkel, nonostante abbia alcuni alleati riottosi, sembra poter ottenere la maggioranza con una certa serenità. E adesso daremo anche i dati sul debito pubblico italiano, non vi preoccupate. Iniziamo dalle materie prime: l'oro a $1,156 l'oncia, in lieve calo. Il petrolio, vi abbiamo detto ampiamente, considerate però che il Brent è arrivato a perdere fino al 2,5%, e anche per il petrolio WTI nelle contrattazioni after hours si è segnato un ribasso dopo la notizia dell'Iran. Poi, come avete visto, hanno un po' ritracciato. Appunto, sull'Iran saranno cancellate tutte le sanzioni, c'è una roadmap con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Nucleare per tenere sotto controllo quello che succede dal punto di vista dell'arricchimento dell'uranio. Se ci saranno violazioni, partiranno nuove sanzioni entro 65 giorni dall'accertamento. Ci sarà un embargo delle Nazioni Unite sulle armi a Teheran per altri 5 anni, almeno questo secondo le indiscrezioni che sono circolate. Esultanza agli Stati Uniti, esultanza dall'Iran medesimo, la rabbia di Israele, questo lo abbiamo ampiamente raccontato anche nei nostri giornali radio. Gioia della Russia, Putin che dice il mondo tira un grosso sospiro di sollievo. E anche su questo torneremo tra poco. I dati dagli Stati Uniti. Ci sono le vendite al dettaglio, in giugno sono calate dello 0,3% in America, il dato è inferiore alle attese degli analisti che scommettevano su un aumento dello 0,3%, come avete visto il mercato americano non ne ha risentito tantissimo. E poi ci sono i prezzi alle importazioni negli Stati Uniti, scesi dello 0,1%, con un calo dello 0,2% al netto della voce energia, un dato peggiore rispetto alle attese degli analisti che scommettevano su un aumento dello 0,1. Ci sono un po' di dati da aziende americane. JP Morgan chiude il secondo trimestre con un utile netto in aumento del 5,2% a $6,29 miliardi, siamo oltre le attese degli analisti. E Wells Fargo, utile netto di $5,7 miliardi, ricavi in aumento dell'1%, e qua siamo sotto le attese degli analisti. Dall'Europa invece abbiamo i dati dalla Germania, l'indice ZEV cala 29,7 punti ma supera le aspettative degli investitori e degli analisti, mentre l'inflazione in Gran Bretagna scende e tocca quota zero, a maggio l'incremento medio dei prezzi era stato indicato nello 0,1%. Ho un paio di ascoltatori già mi scrivono sulla riviera del Brenta, ci arriveremo nella seconda parte della trasmissione, e avete ragione a correggermi quando uno fa un errore e sottovaluta. Allora sì, non è stata una tromba d'aria ma è stato un tornado classe F4 con venti a 300 km all'ora. Ha ragione Girolamo e ha ragione Luca, e ci scrive proprio da Dolo, uno dei comuni più colpiti. Veniamo alla Grecia. Alla Grecia, ve l'ho detto, ve l'avrei risparmiato almeno per oggi come argomento di approfondimento, e però un po' di notizie arrivano, sparse, non in grado di comporre un quadro complessivo. Innanzitutto una di cronaca che avete sentito anche nel giornale radio: piccoli gruppi di agenti in tenuta antisommossa hanno cominciato a schierarsi nelle strade attorno a piazza Sintagma. Al momento però la situazione pare tranquilla. C'è l'attacco di Yanis Varoufakis, ex ministro delle finanze, di fatto defenestrato, come vi abbiamo raccontato, sul suo blog. Il recente summit europeo non è nient'altro che la conclusione di un colpo di Stato. Nel 67, l'anno del golpe dei colonnelli, le potenze straniere usarono i carri armati per mettere fine alla democrazia greca. Nella mia intervista alla radio australiana ABC ho affermato che nel 2015 c'è stato un altro golpe delle potenze straniere che hanno usato le banche invece dei carri armati. E va bene, Varoufakis sposa la tesi del colpo di Stato. Si diceva della Gran Bretagna che mette le mani avanti il governo Cameron col cancelliere dello scacchiere George Osborne, ha fatto sapere ai colleghi europei che Londra si opporrà a ogni ipotesi di impiegare il fondo di emergenza europeo finanziato da tutti i 28 per il prestito ponte per la Grecia. Fonti europee vicine ai negoziati rispondono anche abbastanza brutalmente: è sufficiente una maggioranza qualificata, quindi anche senza la Gran Bretagna, per dare il via libera a un prestito ponte per la Grecia che faccia ricorso appunto al fondo IFSM della Commissione europea, dove ci sono ancora disponibili 13,2 miliardi, abbastanza per coprire i 12 urgenti dei quali ha bisogno Atene per onorare i pagamenti. Chiarisce intanto il portavoce del ministro dell'economia Piercarlo Paduan che l'eventuale finanziamento della Grecia da parte del fondo ISM non comporta alcun esborso da parte dei singoli stati membri. E perché? Perché la quota di capitale e competenze dell'Italia è già stata completamente versata nel 2014 e contabilizzata nel debito. Parla il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, in un'intervista alla nuova trasmissione Parallelo Italia in onda su Rai 3. La nostra posizione è stata riforme per tutti, anche per la Grecia, non far finta di non vedere che ci sono delle cose da fare. Le sembra possibile che gli armatori greci avessero il diritto di non pagare le tasse? E che noi avessimo fatto una battaglia per togliere le baby pensioni in Italia e continuassimo a consentirle in Grecia? E rivendicando la posizione dell'Italia dice: noi abbiamo giocato la carta del buonsenso, abbiamo lavorato non inseguendo le telecamere ma cercando di costruire le condizioni di un accordo anche nel rispetto delle regole, così Renzi. E ancora, la missione per l'Europa è creare posti di lavoro per lottare contro la povertà, per dare speranza alle nuove generazioni. L'Europa non sia solo un luogo di numeri, parametri e regole, ma deve essere un luogo innovativo e di crescita. Il presidente dell'INPS Tito Boeri dice che viene avviata oggi la procedura che sblocca i pagamenti per la nuova indennità di disoccupazione NASPI. Nessun problema, aggiunge. E chiede più poteri per l'INPS. La creazione di una nuova agenzia dell'ispettorato del lavoro è costosa e inefficiente e quindi apriamo una cabina di regia col Ministero del Lavoro e l'INAIL presso l'INPS. Ancora sull'Italia, ce lo chiedevate a gran voce questo dato, eccolo. Nuovo record, no. Se un record è necessariamente nuovo, quindi è un record per il debito pubblico italiano, che in valore assoluto, secondo la Banca d'Italia, ha toccato a maggio i 2.218,2 miliardi. Debito cresciuto in un solo mese di 23,4 miliardi. Questo per un aumento delle disponibilità liquide del tesoro, ma anche per il calo dell'euro e le condizioni di mercato sui bond. Il debito dall'inizio dell'anno è cresciuto del 3,9%, 83,3 miliardi. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze twitta: raffronti nel tempo e tra paesi sul debito in rapporto al PIL. Sono sul debito in rapporto al PIL, non in valore assoluto, rispondendo a alcune osservazioni di Renato Brunetta. Sono stabili le entrate nei primi 5 mesi dell'anno, riferisce la Banca d'Italia, il gettito sale dello 0,6%. Infine ci sono un po' di dati forniti innanzitutto dall'ABI. A giugno il tasso, l'Associazione delle Banche Italiane, il tasso medio dei prestiti ai nuovi minimi del 3,42% dopo un record storico al 3,43% già a maggio. Parliamo dei tassi medi, tassi di interesse medi, e qua evidentemente anche la BCE ci gioca parecchio. A giugno si ferma la caduta dei prestiti, un meno 0,1%, il miglior mese da aprile 2012 per finanziamenti a famiglie e imprese. Qua ci direte, non è vero, ho chiesto un mutuo, non l'ho ottenuto, ovviamente sono statistiche generali. E veniamo adesso al primo tema di giornata, ma per introdurlo lo facciamo con i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, in collaborazione con RDS, curati oggi da Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore. Il tema è l'Iran. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. La notizia principale di oggi è sicuramente l'accordo sul nucleare tra l'Iran e i paesi del 5+1, vale a dire gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, la Francia, la Gran Bretagna e la Germania. Una notizia che ha una valenza politica e che apre nuovi scenari a livello geopolitico. Ma oltre, diciamo, a questa importanza, è giusto ricordare che uno degli effetti principali dell'accordo è rappresentato dall'azzeramento delle sanzioni economiche imposte all'Iran, sanzioni che verranno appunto eliminate. Ecco, tutto ciò apre nuove prospettive anche per l'Italia, che peraltro ha sempre mostrato un certo attivismo nei rapporti con Teheran. I numeri dell'Iran ne fanno un mercato con grandi potenzialità di crescita: 77 milioni di consumatori, un PIL che vale 370 miliardi di dollari. Il ritiro delle sanzioni potrebbe portare un incremento del nostro export di quasi 3 miliardi di euro nei prossimi 4 anni. I settori con maggiori opportunità saranno quello dell'oil and gas, dell'automotive, la difesa, i trasporti e naturalmente tutto ciò che è legato alle costruzioni. Poi c'è il versante energetico: petrolio e gas iraniani valgono rispettivamente l'11% e il 18% delle risorse mondiali. Le nostre aziende come Eni e Saipem avevano sviluppato importanti progetti e il ritorno dell'Iran sulla scena internazionale sarebbe ora un'opportunità preziosa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Eccoci dunque a parlare di Iran. Prima devo una risposta ad un ascoltatore, Enzo da Milano, che dice: ma sei un giornalista, un portavoce di qualcuno, perché quando parli di Varoufakis hai questa enfasi negativa? Eri uno che stimavo, Enzo. L'enfasi negativa non è su Varoufakis, è su quello che dice. Abbia pazienza, questa retorica del colpo di Stato. Ma se un premier regolarmente eletto, che ha ricevuto anche un mandato popolare con un referendum, va in un consesso internazionale e firma un accordo, sarà un brutto accordo, sarà non piacevole, negherà il mandato che ha ricevuto, però è un premier eletto che firma un accordo. A me tutto questo colpo di Stato non lo vedo. Avrebbe potuto eventualmente ribaltare il tavolo ed uscire dall'euro. Forse inaccettabile economicamente, ma politicamente forse più accettabile. E quindi di colpo di Stato non si tratta. Se Varoufakis dice la prosecuzione del colpo di Stato dei colonnelli, non sa di cosa parla, evidentemente. Oppure fa un gioco politico. Con tutto il rispetto per un anche quello che forse è anche un ottimo economista. Veniamo all'Iran, dunque. Dopo 21 mesi di colloquio è stato raggiunto questa mattina a Vienna un accordo storico. Cancellazione di tutte le sanzioni in vigore nei confronti della Repubblica Islamica, probabilmente a partire da inizio 2016. In cambio l'Iran accetta una moratoria di 15 anni sull'arricchimento dell'uranio. Nei primi 10 anni il numero di centrifughe sarà ridotto da 19.000 a 5.000. Quello che ci interessa qua evidentemente è più che altro il fronte economico e il fronte di quello che possono fare le aziende italiane a questo punto, dopo aver perso un mercato importante all'avvio delle sanzioni. Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, frequentatore dell'Iran ormai da, spero di non offenderti Alberto, è un quarto di secolo più o meno. No, di più, di sono più. 35 anni. 35 anni. La prima volta ci andai nell'80, ne avevo neppure 24, li compì durante il viaggio di ritorno. E Alessandro Terzulli, capo economista di SACE, buongiorno e benvenuto. Il gruppo assicurativo finanziario controllato dalla Cassa Depositi e Prestiti, che si occupa di gestione del credito e offre le coperture alle nostre aziende che vanno all'estero. Terzulli, benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno. Però con voi devo parlare, devo dare la pausa. C'è la pubblicità, ci fermiamo un attimo e poi ci facciamo una bella chiacchierata e cerchiamo di capire che cosa ne emerge e quali sono le opportunità che si aprono per l'Italia. State ascoltando un programma offerto da... Ciao, sono Alessandro Del Piero. Il mio segreto a 40 anni? Bevo Liveto, acqua della salute. Focus Economia. Eccoci a parlare appunto dell'accordo sul nucleare iraniano, sempre il 349-238-6666 per i vostri sms. E ripartiamo da questo rapporto diffuso oggi proprio da SACE, che indica in 3 miliardi il possibile incremento dell'export italiano verso il paese tra il 2015 e il 2018, non in grado evidentemente di eguagliare quanto abbiamo perso cumulativamente a partire dal 2006, siamo intorno ai 17 miliardi. Alessandro Terzulli, capo economista di SACE, ci dice quali sono i settori potenzialmente coinvolti? Sì, beh, allora qui abbiamo diciamo due facce della medaglia. Parliamo velocemente di quelli che sono stati più penalizzati. È da dire che con il giro di sanzioni del 2011 in poi sono stati soprattutto la meccanica strumentale, anche se solo a livello assoluto, quindi tutti i macchinari e gli apparecchi meccanici che sono di gran lunga i beni più esportati in Iran, il cui export verso il paese si è dimezzato, insieme a mezzi di trasporto, prodotti agricoli e metalli. Va detto che dal 2011 in poi tutti i settori italiani hanno visto il loro export verso l'Iran ridursi quando c'è stato proprio il forte giro di lite. Ora però lo scenario appunto cambia, come è stato detto ampiamente, e appunto al 2018 prevediamo questi 3 miliardi di export aggiuntivo, quindi prevediamo che dall'1,1 miliardi di export italiano in Iran del 2014 potremmo raggiungere di nuovo al 2018 2,5 miliardi. Perché questo numero è importante? Perché diciamo è un numero molto vicino, anzi di poco superiore diciamo al picco che era stato raggiunto prima ovviamente che le sanzioni iniziassero a mordere sulle nostre vendite. Quali sono le opportunità che in questo momento noi vediamo in un'ottica sì di rimozione delle sanzioni, ma che come giustamente diceva lei potrebbe avvenire a partire da inizio 2016? Sì. Beh, è chiaro, il settore ovviamente petrolifero, quindi quello dell'oil and gas, è il maggiore settore di punta per il paese, per quanto l'economia ovviamente... E leggevo Terzulli dal vostro rapporto che qua, perché noi tendiamo a pensare solamente, già lo dicevo in apertura, alla materia prima, in realtà qua c'è tutto un sistema petrolifero complessivamente, anche a livello di impianti da rimettere in piedi o quantomeno rimodernare, ecco, per così dire. Ah, esattamente. Allora la sfida è di rendere l'intero settore molto più produttivo ed efficiente per il paese, perché se è vero che le riserve, le risorse del paese sono ancora notevoli, va detto che questi anni di sanzioni e in generale alcuni investimenti mancati nel passato ovviamente hanno posto l'efficienza degli impianti a un livello molto basso. Le faccio un esempio: l'Iran deve pompare tantissimo del suo gas nei pozzi di petrolio per tirarlo ovviamente su. cosa che con tecnologie più moderne ovviamente non succederebbe. Allo stesso tempo però noi in passato diciamo siamo stati degli importanti fornitori da questo punto di vista, avendo le eccellenze italiane. Oltre ovviamente che per grandi impianti in quest'industria, noi vediamo anche diciamo opportunità pure per imprese che sono collegate a questo indotto, quindi nelle valvole, nei raccordi, nei sistemi, e anche tra l'altro in un'ottica di sviluppo dei settori più a valle, quindi del settore ovviamente della raffinazione. Quindi come dire, opportunità anche per le piccole e medie italiane, poi inserite anche l'automotive, quello militare, ma ci sembra di capire dai termini dell'accordo che questo sia un po' più complicato, perché permane anche un embargo. Ci sono dei limiti innanzitutto che sono imposti, allora qui c'è una simmetria tra i paesi, no? Sicuramente Russia e Cina sono posizionate diversamente su questo tipo di forniture. Per i paesi occidentali, quelli europei concreti, ci sono dei limiti maggiori, se non altro questi sono i limiti, i vincoli che sono anche imposti dai paesi arabi che si sono riforniti molto a livello di difesa, da Stati Uniti, Europa, dai paesi ovviamente del mondo occidentale. Ed è chiaro ovviamente che questi paesi non vedrebbero di un buon occhio delle forniture molto elevate a livello di difesa. E questo è un altro punto ed è un punto politico. Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, il tema è questo. Oggi il vice ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda dice: l'accordo con l'Iran riapre un mercato importantissimo, ci muoveremo subito, missione entro l'estate. Il tema è che non siamo da soli. Da una parte ci sono Cina e Russia, che di fatto le sanzioni non le hanno applicate o le hanno applicate molto poco, e quindi in quel mercato nella sostanza ci sono rimasti. Parliamo di un mercato da 75 milioni di abitanti e proiettato demograficamente sui 100 milioni di abitanti nel giro di una quindicina d'anni. E poi ci sono tutti gli altri europei e quelli che le sanzioni le hanno applicate, che in questo momento vogliono entrare in quel mercato con tutte e due i piedi, insomma. Ma insomma, se vogliamo fare un ragionamento un po' più approfondito, si possono dire un paio di cose interessanti. La prima è che l'Italia è stato per molti anni il principale partner economico dell'Iran, e questo sin dagli anni della guerra, cioè all'indomani della proclamazione della Repubblica Islamica. L'Italia era comunque un paese che aveva un piede importante in Iran in tutti i settori, al punto che oltre ad avere la presenza dell'Eni c'era, fu fatta la più grande acciaieria del Medio Oriente, Mubarak, proprio dalla Danieli. Non solo, ma lavoravano moltissime le nostre piccole e medie imprese. In poche parole, ed essendo molto espliciti, l'industria bellica iraniana, durante gli anni in cui si dovette confrontare con l'attacco di Saddam Hussein, fu in pratica in gran parte retta proprio dalle aziende italiane. Quindi c'è sempre stata da parte iraniana una certa gratitudine proprio per la presenza italiana, perché l'Italia non aveva mai abbandonato questo paese, neppure nei momenti più difficili. Certo, oggi noi ci troviamo di fronte a una concorrenza molto forte, a partire da quella cinese. La Cina ha con l'Iran oggi 50 miliardi di dollari di interscambio l'anno, e sono destinati ad aumentare, in quanto Pechino è diventata una delle destinazioni principali dei prodotti energetici, del petrolio, del gas e del gas iraniano. La Russia ha comunque un peso importante, sia la Cina che la Russia sono i fornitori del 40% dei sistemi di arma dei Pasdaran, delle guardie della rivoluzione. Quindi ci troviamo di fronte a una concorrenza forte sul fronte orientale, ma anche da quello occidentale. La Germania in primo luogo, che manda adesso il suo ministro dell'economia Gabriel. La stessa Francia, che peraltro in questo negoziato ha giocato sempre a fare un po' il gioco anche un po' dei sauditi, che sono diventati loro grandi clienti perché gli vendono i caccia Rafale. Bene, Fabius, il ministro degli esteri, ha detto, annunciato che farà una missione a Teheran proprio per garantire la presenza, una presenza importante delle aziende francesi. E poi ci sono tutti gli altri concorrenti che sappiamo bene, non ultimi forse proprio gli americani, che da un'apertura, soprattutto le grandi compagnie, si aspettano qualche cosa di importante. ci sono molti soldi in ballo, questo sì, perché se verranno scongelati i conti all'estero, si parla di cifre che vanno dai 50 ai 150 miliardi di dollari. Nel campo del petrolio ci sono stime forse anche un po' troppo ottimiste di contratti per un centinaio di miliardi di dollari nei prossimi anni. Sono cifre molto alte, molto grosse. Ma detto questo, l'Italia ha un ruolo in questa messe di commesse e di forniture, se lo può sicuramente ritagliare, però bisogna essere pronti a scattare i blocchi, perché sì, altrimenti gli altri ci soffiano le posizioni migliori. Evidentemente. Allora, io ringrazio tutti e due, ringrazio, purtroppo abbiamo poco tempo al momento, ma è un tema sul quale torneremo nella seconda parte della trasmissione, parleremo più specificatamente del mercato petrolifero. Ringrazio dunque Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, Alessandro Terzulli, capo economista di SACE, per i chiarimenti e per averci dato un punto così netto su che tipo di mercato si apre, con tutte le complicazioni che ci sono e che trovate tra l'altro anche nello stesso rapporto della SACE. Grazie a tutti e due, c'è il traffico, ci ritroviamo tra un attimo e parliamo di un settore industriale, quello della nautica. Focus Economia. Nel nostro viaggio nell'industria italiana torniamo ad occuparci di un settore importante, quello della nautica, in cui gran parte dei produttori sono riuniti sotto Ucina, Confindustria Nautica. Abbiamo con noi la presidente Carla De Maria, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera. Allora, parto con una domanda che è collegata al tema che abbiamo appena toccato in realtà, perché nel rapporto diffuso da SACE sull'Iran si dice che vi è una crescente sensibilità in Iran verso le nuove tendenze di design, soprattutto da parte delle elite iraniane. E qua è qualcosa sul quale, insomma, potreste metterci gli occhi, presidente, no? Assolutamente sì, e l'Iran di fatto non è il solo paese che possiamo considerare poco conosciuto dal punto di vista della nautica, ma in realtà è un paese che ha una ricchezza concentrata nelle mani di pochi persone, però assolutamente interessante per il nostro settore. Ma non è il solo, ci sono molti paesi cosiddetti Next 11 dopo il BRICS del sud-est asiatico, che stanno dando segnali molto interessanti. Chiaramente la nautica ha bisogno di infrastrutture, per cui non è un gioiello che si può portare al dito e che dunque rende tutto molto più semplice. Abbiamo bisogno di costruire porti, infrastrutture, competenze nelle riparazioni e nella gestione, però il punto di partenza è chiaramente sempre la presenza di clienti, e su questi mercati c'è una ragione, c'è una crescente un crescente interesse verso il prodotto del mega yacht, dell'oggetto di lusso, e per fortuna nelle barche di grandi dimensioni l'Italia è il paese al mondo che offre una produzione di eccellenza, per cui sì, credo, guardi, la globalizzazione è un male necessario, se vogliamo, tra virgolette, lei mi ha corretto, ho usato questo termine, e lei mi ha detto un bene necessario, sì, un bene necessario, ma per alcuni cantieri che stanno soffrendo da molti anni una crisi che democraticamente colpisce proprio tutti, è quasi diventato un lusso, una necessità, per cui oggi stiamo cercando anche come associazione di unire le forze per cercare, sì, di poter entrare in questo. Sì, a questo volevo arrivarci. Intanto, va bene, abbiamo il dato, questi dati dei primi mesi dell'anno che indicano un settore in ripresa, ancora probabilmente fortemente dipendente dall'export come gran parte dei settori italiani, cioè un mercato interno che mostra ancora la corda, o qualche segnale in questi ultimi 2-3 mesi lo avete percepito che vanno un po'? Beh, allora, se ci riferiamo alla ripresa, questa di modesta entità, ma comunque è stata un'inversione di tendenza precisa, si è verificata già nel 2014. Dopo anni e anni di calo, registriamo un 2,1%, che ripeto non è di grandissima entità, ma indica una controtendenza. È vero che questo dato è positivo per effetto delle esportazioni, dove i cantieri nautici sono molto, molto forti e strutturati per l'esportazione. E quindi ancora nel 2014 il dato del mercato interno non registrava un numero positivo. Per fortuna, e questo chiaramente noi stiamo monitorando mensilmente il mercato, nei primi mesi del 2015 abbiamo registrato dati molto interessanti. Se devo dire, quello che a me interessa di più è quello che ci indicano dai colleghi anche che seguono tutta la registrazione dei contratti di leasing, è un 30% in più di numero di contratti di leasing firmati. I contratti di leasing sono chiaramente di clienti italiani, per cui il mercato interno segnala rispetto all'anno precedente mese su mese un 30% in più. Questo è molto positivo. Sì. Associazione abbiamo anche registrato attraverso un questionario fornito a tutti i soci una indicazione di un 7,5% trimestre su trimestre da parte dei nostri associati rispetto all'anno precedente. Quindi qualche segnale positivo c'è. Sì. Prima di chiudere con lei, Presidente, c'è una domanda che riguarda quella che, se vogliamo, è la vita interna dell'associazione, ma alla fine è la vita interna di un settore industriale. Il 30 settembre ci sarà il Salone Nautico di Genova, ci sono state delle tensioni all'interno dell'associazione e mi sembra che il tentativo che state facendo adesso è quello di ricomporre queste tensioni il più possibile. Certamente sì, e la partecipazione al Salone Nautico è chiaramente un segnale in quella direzione. Beh, intanto la cosa molto positiva, ed è un altro segnale che in questo primo semestre abbiamo registrato, c'è un maggiore interesse quindi alla partecipazione al Salone, abbiamo un numero di iscritti superiori, sono tornati cantieri che non erano presenti da uno o più anni, e questo ci fa molto piacere. E in riferimento alla sua domanda, sono molto contenta che quelli che sono stati chiamati dissidenti comincino a riconsiderare il Salone Nautico come vetrina per esportare e vendere all'interno le loro imbarcazioni. Azimut ha confermato la sua partecipazione al Salone Nautico e tornerà sotto il padiglione dove per tantissimi anni era presente. Ma non è solo il caso di Azimut, tornano e non erano tra i dissidenti marchi italiani importanti quali Cranchi e Sesta, che non erano presenti prima. Benissimo. Per cui, insomma, buone notizie anche da qua, Presidente. 30 settembre quindi inizia il Salone Nautico e grazie a Carla De Maria, Presidente di Ucina Confindustria, alla battuta dell'ascoltatore via SMS che dice: ma come, l'Iran un possibile mercato per il lusso? Ve lo ricordate il Presidente con la giacchetta, quella di Ahmadinejad, perché a lui che si riferisce, era pura retorica, pura immagine. In realtà i soldi in un pezzo dell'elite iraniana ci sono. Il giornale radio e poi anche di Iran torniamo a parlare, oltre che di altri argomenti andremo sulla riviera del Brenta. State ascoltando un programma offerto da... Lo sanno tutti, Rocchetta, acqua della salute, depura l'organismo, plin plin. Focus Economia. Buonasera da Simone Spezia, benvenuti alla seconda parte di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms. A proposito dell'Iran, e ci ritorneremo tra un attimo, ci scrive Giuseppe: sarà tanto se ci lasceranno le briciole, non contiamo nulla. Non lo so, Giuseppe, come ha sentito quello che ci diceva anche Alberto Negri pochi istanti fa, possiamo contare per certi versi su una sorta di rapporto privilegiato. È sperabile poi che i nostri vertici politici si muovano efficacemente da questo punto di vista. Questo a prescindere ovviamente da tutte le considerazioni di politica internazionale che abbiamo fatto e che faremo nelle prossime ore, nelle prossime settimane. Non ci siamo scordati la borsa, eccola, eccola. FTSE MIB in calo dello 0,3%, FTSE All Share dello 0,4%, Parigi più 0,69%, Francoforte più 0,28%, più 0,23%, Londra. In guadagno anche l'America, più 0,34 il Dow Jones, Standard & Poor's 500, più 0,41. Flavia Carletti, Radio Corriere delle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Vien da dire finalmente una giornata normale, insomma, pur con i cali per Milano. Sì, esattamente, diciamo che dopo i rialzi di ieri oggi gli investitori sono apparsi più cauti, infatti la giornata è stata quasi tutta negativa, poi sul finale le principali borse europee tranne Milano hanno recuperato anche sulla scia di Wall Street, dove il progresso è sostenuto in particolare dal recupero, diciamo, del petrolio che era sceso dopo l'accordo sul nucleare iraniano e anche grazie ad alcune prime trimestrali che stanno uscendo. Milano ha fatto storia a sé oggi perché è stata appesantita da alcuni cali molto pesanti, soprattutto dei titoli del risparmio gestito, quindi ha fatto una storia diversa dalle altre. Ecco, proprio su questo fronte, perché senza ombra di dubbio la storia di borsa di giornata questa qua, abbiamo Azimut che cede il 7,42%, Mediolanum che chiude con un calo del 7,81% e anche Banca Generali che in questo momento non ho sotto mano, eccolo qua, meno 8%. Cosa è successo? Secondo gli operatori questi titoli hanno risentito di un richiamo della Consob che ha detto agli intermediari finanziari come queste società attive nel risparmio gestite, richiamo al rispetto della direttiva MiFID, in particolare per quanto riguarda la distribuzione ai clienti retail di fondi esteri ed estrovestiti. Diciamo, la parte proprio del richiamo che ha interessato di più, forse ha provocato le vendite, è stata quella in cui c'è stato il richiamo a dire che la selezione dei prodotti da offrire o consigliare alla clientela non può fondarsi su valutazione di mero vantaggio economico per l'intermediario, ma deve essere rivolta prioritariamente a soddisfare gli interessi dei clienti serviti. E in Europa ci sono delle disomogeneità tra i diversi paesi sulle commissioni di incentivo che hanno gli intermediari e quindi la Consob ha deciso di intervenire per invitare i distributori di fondi caratterizzati da meccanismi commissionali più vantaggiosi per i gestori e per gli stessi distributori per individuare quelli che possono essere i conflitti di interessi che derivano da questa situazione. E queste società che sono state quelle più penalizzate al mercato sono quelle proprio che hanno le performance fees più alte in percentuale sui ricavi. Per quanto riguarda gli altri singoli titoli a livello generale, Monte dei Paschi un più 2,12%, ma abbiamo visto quanto era calata ieri, è un rimbalzo sostanzialmente, mi sembra di capire, Flavia. Sì, esattamente, secondo gli operatori è un riallineamento rispetto all'andamento che avevano avuto altri titoli bancari ieri, certo. Visto che era andata male mentre le altre banche erano andate bene, oggi c'è stato proprio un riaggiustamento dei valori, tanto che le popolari, che ieri invece molte erano andate bene, oggi invece sono state vendute. Allora abbiamo qualche realizzo sul lusso, meno 1,95%, per esempio Moncler meno 1,12%, Luxottica anche, ogni tanto la includiamo nel lusso anche se solo lusso non è, Ferragamo mezzo punto percentuale di calo, in questo c'è Tod's che guadagna l'1,95%, ci sono motivi particolari? No, da quello che abbiamo visto no, sono movimenti sempre legati appunto all'andamento di ieri. Oggi non ci sono, al di là proprio del tema del risparmio gestito, non sono emersi temi particolari, c'è stato più una reazione all'andamento di ieri, secondo gli operatori. In qualche modo c'è stato un riaggiustamento a livello settoriale alla luce di quello che era successo ieri, visto che oggi, diciamo, la situazione è stata più tranquilla, una giornata di relativa calma in attesa del Parlamento di Atene che si esprimerà domani e quindi probabilmente c'è stato solo appunto movimenti di aggiustamento. Abbiamo ancora il titolo Saipem che guadagna l'1,43%, qua immagino in qualche misura collegato alla vicenda iraniana, perché insomma se ne parlava poco fa con Sace, dicevano insomma è uno dei settori che rivivrà per così dire in Iran, esattamente quello dell'impiantistica per quanto riguarda il petrolio. C'è qualcosa di collegato a tutto questo o no? Comunque i movimenti oggi di tutta una serie di titoli petroliferi sono stati legati comunque alla vicenda iraniana. L'accordo sul nucleare iraniano aveva fatto scendere le quotazioni del petrolio perché ci si aspetta un ingresso di nuovo dell'Iran senza tutta una serie di sanzioni comunque sul mercato internazionale per il suo petrolio. Questo ha fatto scendere le quotazioni e quindi a un certo punto tutti i titoli del settore sembravano scendere. Poi invece nell'arco della giornata c'è stato un aggiustamento anche in questo caso, perché probabilmente al di là della reazione iniziale, forse più emotiva, si è andati a ragionare su quello che può voler dire un Iran che si riapre in qualche modo al mercato internazionale. Ebbene, sì, ebbene oggi oggi anche Tenaris, meno, cioè più 1,19%, e infine Prysmian, più 1,41%. Sì, su Prysmian oggi c'è stata la notizia che ha ottenuto un contratto da 550 milioni per realizzare una tratta record che andrà dall'Inghilterra alla Norvegia per 740 chilometri, sarà il più lungo collegamento sottomarino di interconnessione ad alta tensione di corrente continua, quindi comunque per la società italiana è una buona notizia. Bene, anche Campari che guadagna l'1,14, A2A più 0,97, Finmeccanica più 0,92, più 0,7 ST Microelectronics, più 0,6 Fiat Chrysler, Yux e Autogrill guadagnano 0,5%, lo 0,3 Generali e Mediaset, Eterna più 0,2 appena sopra la parità, Banco Popolare, Ansaldo STS, World Duty Free, Unipolsai più 0,09%, appena negativi Atlantia, Intesa San Paolo, Snam, Eni, Enel ed Exxon, CNH a meno 0,35, così come Pirelli, UbiBanca a meno 0,4, mezzo punto percentuale di calo come si diceva per Ferragamo, e Mediobanca a meno 0,62, Unicredit meno 1,04%. Da segnalare oggi all'esordio in borsa agli aeroporti di Bologna, un guadagno del 32,2%. Grazie a Flavia Carletti, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buona giornata. Grazie a voi. E noi passiamo, restiamo sull'argomento Iran, ma per parlare di petrolio. Perché l'accordo sul nucleare iraniano, come si ricordava, riguarda molti beni, anche molti lavori, ma riguarda una bella quota di greggio. Stando alle stime di Commerzbank, dalla metà del 2016 l'Iran potrebbe reintrodurre sul mercato 500.000 barili al giorno, a cui potrebbero aggiungersi altri 500.000 barili entro la fine del prossimo anno. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, buonasera. Buonasera, grazie. Prima di parlare con lei, il traffico. Focus Economia. E prima di andare da Tabarelli, un ascoltatore ci dice: no, non ho compreso come mai Azimut, Mediolanum e via dicendo abbiano perso così tanto. Allora, è un po' complicata da spiegare, però è un richiamo che è arrivato dalla Consob in merito alle commissioni sui fondi esteri ed estero vestiti che vengono gestiti da queste società, così come da Banca Generali, che ha perso l'8%. Gli operatori hanno ritenuto che questo potesse avere un impatto evidentemente sui ricavi di queste società e hanno venduto. Per farla molto semplice e molto netta. Dunque, con Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, si diceva i dati di Commerzbank che parlano di 1 milione di barili al giorno più o meno entro la fine del 2016. Innanzitutto, se condivide questa stima di Commerzbank e che impatto tutto questo potrà avere sul mercato del greggio. L'Iran attualmente produce 2,8 milioni di barili al giorno. Prima delle sanzioni partite a fine 2012 produceva 3, pertanto la differenza è 1. Ecco, i tempi con cui ritornare a questo 1, secondo me sono un po' più brevi di metà 2016, probabilmente già quest'anno vedremo dei volumi addizionali, gli effetti non possono che essere positivi per noi consumatori, per prezzi a ribasso. Ad oggi siamo fermi per il brand intorno ai 58, in realtà è da un po' di settimane che il mercato dà per scontato l'accordo, pertanto i prezzi erano già deboli, avevano già perso $10. Vedremo se continuano nei prossimi giorni i prezzi alla pompa più bassi. Quello che vorrei capire da lei, Tabarelli, è: dato che il prezzo è sostanzialmente controllato da mesi dall'Arabia Saudita, a ribasso e poi stabile intorno appena sopra i $50 al barile, se continuerà ad essere così o se qualcosa cambia effettivamente sul mercato o l'Iran ha le dimensioni oppure no per incidere. Guardi, aggrava lo scontro che c'è fra Iran e Arabia Saudita. Dal 1979, ma anche negli anni 70, era lo scontro o l'amicizia fra Iran e Arabia Saudita che dettava i movimenti di fondo del prezzo del petrolio, poi c'erano altri eventi, domande, offerte che influivano. Anche lo scorso novembre, quando l'Arabia Saudita ha deciso di non tagliare la produzione, anzi di aumentarla, lo ha fatto per non fare spazio a un possibile ritorno dell'Iran, cioè per danneggiare un paese che, come l'Iran, che ha disperato bisogno di prezzi più alti perché è una popolazione abbondante. Ecco, quello che viene confermato anche dalle statistiche che sono uscite ieri, l'Arabia Saudita continua a aumentare la produzione. Perciò quello che accadrà sarà ravvivare questo scontro e, ripeto, per noi consumatori è una competizione. Che cosa vuol dire in termini di prezzo del petrolio e quindi poi alla fine, pur con tutti i ritardi che raccontiamo sempre, di prezzo dei carburanti? Guardi, rispetto a un anno fa, quando l'ISIS sembrava prendere controllo dell'Iraq, i prezzi sono dimezzati del petrolio, siamo intorno a 58, eravamo 110, il prezzo alla benzina, del gasolio, quello più usato in Italia, intorno a 1,40, dico i massimi, anche 2-3 anni fa siamo stati anche 1,80, perciò siamo sempre 40 centesimi in meno, e io spero che nei prossimi giorni ci siano delle riduzioni, ma questo dipende anche dai prezzi, dal mercato dei prodotti e dal cambio dollaro-euro. La ringrazio, grazie a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, anche per questo punto su quello che comporta sul mercato il prezzo del petrolio, sul prezzo del petrolio la fine delle sanzioni all'Iran. Vi do una notizia appena battuta dalle agenzie: il provvedimento che contiene le misure richieste dall'Eurogruppo per il salvataggio della Grecia è stato presentato in Parlamento e adesso inizierà quella che possiamo definire la battaglia di Tsipras. L'ha annunciato il Ministero delle Finanze, retto da Euclides Tsakalotos. Questo è il quadro per quanto riguarda la Grecia. Oggi ne abbiamo parlato ampiamente all'inizio. Prima di chiudere, vogliamo dedicare uno spazio a quello che è successo sulla riviera del Brenta. E mi fa piacere sull'Iran, a proposito di Iran, e tanto ne abbiamo parlato, molti ascoltatori ci scrivono scettici, dicono ma insomma non riusciremo a cavarne nulla, partecipa la Germania, la Francia, l'Inghilterra, noi non ci siamo, oppure quando parte la delegazione di imprenditori tedesca, ce ne parlava poco fa Alberto Negri, perché se il rapporto privilegiato rimane fermo è come continuare a parlare del patrimonio artistico per poi lasciare chiuso, ci dice un altro ascoltatore, ci scrive invece un altro ascoltatore che lavora a Federlegno Arredo, importante associazione industriale italiana, cioè da 2 anni che andiamo in Iran, portiamo aziende a fare business nel contract nel settore degli uffici, ne sono state portate 34 nel 2014, rapporti e contatti diretti, si collabora con l'ambasciata ICE, non siamo gli ultimi e siamo molto apprezzati e stimati, bene così. Matteo Zoppas, presidente di Confindustria Venezia, buonasera. Buonasera a lei, Simone. Buonasera. Mercoledì 8 luglio, una violenta, l'abbiamo chiamata tromba d'aria, ci hanno corretto, ci hanno detto è un tornado, ma insomma sapete benissimo di che cosa stiamo parlando. Si è abbattuta sulla riviera del Brenta, provincia di Venezia, ha colpito i comuni di Dolo, Cazzago, Pianiga, parte di Mira. Il bilancio conta un morto, 92 feriti e moltissimi edifici danneggiati anche gravemente. Per darvi un'idea, abbiamo avuto ospite ieri ad effetto giorno il sindaco di Dolo, che ci ha parlato di 300 edifici solamente nel suo comune e che, considerando anche le ville venete colpite, quindi beni artistici e culturali solo per il comune di Dolo, si parla di danni intorno ai 150 milioni di euro. La stima iniziale, che era intorno ai 100 milioni di euro, ma era una stima arrivata nell'immediato, quindi non sembra assolutamente rendere giustizia. Io voglio capire da lei, Zoppas, qual è la situazione delle aziende della zona? Allora, noi abbiamo fatto un sopralluogo come Confindustria, abbiamo anche partecipato alla conferenza che è stata fatta dal governatore Zaia insieme anche alle altre categorie. Devo dire che la situazione è tragica, sicuramente come è stata descritta. Ci sono case, come dice lei, 90 di quelle 300 probabilmente dovranno essere abbattute perché comunque rischiano fanno rischiare l'abitabilità. Dall'altra parte abbiamo un impianto produttivo che ha subito ingenti danni. Non si parla solo di scoperchiamenti, ma si parla anche di ville, quelle che fanno parte del nostro turismo, che sono state completamente distrutte, come Villa Ducale. Abbiamo altre aziende, in tutto sono circa 15 aziende, solo quelle di Confindustria Venezia che sono state danneggiate. Hanno circa come danni diretti stimati, ma naturalmente sono valori che verranno rivisti, circa 5 milioni di euro probabilmente a salire. E il vero danno che hanno queste aziende non è solo quello del danno diretto alle infrastrutture o eventualmente anche ai prodotti che sono stati danneggiati, ma soprattutto alle perdite di commesse che in alcuni casi, dove ci sono i clienti che non hanno capito la situazione, si rischiano anche di perdere clienti. Qualcuno si è riprotetto addirittura con dei competitor che hanno accettato di prendere il loro lavoro e quindi portarlo a termine per loro, però ci sono degli imprenditori che sono assolutamente provati. Devo dire c'è una grossa solidarietà da parte delle autorità locali, sia dal governatore Zaia che da tutti i sindaci che si sono rimboccati subito le mani, addirittura sindaci che si sono messi a lavorare con i volontari per sistemare quanto prima le cose, e i nostri imprenditori sono sicuramente penalizzati. Ci sono aziende che sono completamente ferme, Presidente? Ci sono aziende che sono completamente ferme, anche lo solo scoperchiamento dei tetti, che è il male minore che può essere successo con una tromba d'aria, con il maltempo, ha fatto sì che piovesse dentro le aziende. Tutti i macchinari che hanno le loro centraline, che impongono quindi il fermo immediato della produzione, hanno fatto sì che le migliori aziende, quelle più tempestive, sono riuscite a ripartire tra oggi e domani come produzione. Però le ripeto, il dover spostare tutti i macchinari, poi ricollocarli, rimetterli in dima e fare tutte le operazioni che sono necessarie per riavviare la produzione, sono dei costi importanti e pesanti, oltre naturalmente a tutti quelli che possono essere i disagi connessi e indiretti che vengono sostenuti. Devo dire che la reattività dei veneti e dei nordestini non si è smentita neanche questa volta, perché gli imprenditori si sono messi subito al lavoro per ripristinare, insieme anche ai loro dipendenti, a ripristinare le loro produzioni. E cito proprio la parola di un imprenditore che siamo andati a trovare, che ha detto: io devo ripartire entro martedì perché devo anche pagare i salari ai miei dipendenti. L'ultima domanda che le voglio fare, anche se sarebbe quasi da lasciare con questa frase perché è oggettivamente molto bella, l'ultima domanda che le voglio fare è: che cosa chiedete, se si può ipotizzare, se avete avuto anche contatti col governo, per una sospensione dei tributi? Guardi, se non me lo chiedeva lei gliel'avrei proposto io. È chiaro che noi abbiamo bisogno sicuramente che venga considerata come quella che è una calamità naturale, quindi con l'apertura di tutti i procedimenti necessari. Noi ci aspettiamo una defiscalizzazione sicuramente, che sia tari, tasi, siano dei contributi anche sul ripristino dei vari impianti, tutta la parte infrastrutturale che noi dobbiamo sistemare, e sicuramente abbiamo bisogno che vengano devoluti degli importi, così come ha fatto la Regione, che ha già stanziato 3 milioni più altri 3 ne stanzierà, ma anche da parte del governo abbiamo bisogno di un aiuto che sia commisurato almeno a quanto hanno fatto localmente. Grazie a Matteo Zoppas, presidente degli industriali di Venezia, per essere stato con noi. Abbiamo voluto porre l'attenzione su quello che è successo, tornare ad accendere i riflettori, perché non è stata come un'alluvione, che l'alluvione in Veneto che colpì 200 comuni, molto circoscritta, ma come sentite i danni sono stati violentissimi e c'è bisogno di ripartire. Grazie a Barbara Bianchi, Leonardo Siricato in assistenza in redazione, a Valeria Bernardi in regia, a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia. Vi auguro una buona serata. Ci risentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno, e alle 17 torna Sebastiano Barisoni. Radio 24. La passione si sente.